è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. E dunque, caro Parenzo, sembra sia saltata, non per colpa di Michele Pazzo, come ricorda questa canzone meravigliosa di Nino Gaetano, forse è saltata la trattativa tra Michele Santoro e La Sette. E la notizia che riguarda il mondo del giornalismo, dell'informazione, è addirittura la prima in molti siti di informazione, quello del Corriere, quello di Repubblica, quello del Sole 24 Ore, eccetera, eccetera, eccetera. Come mai? Si dà grande importanza alle notizie che vengono dal mondo dell'informazione. Ricordiamo cosa disse qualche settimana fa Enrico Mentana, direttore della Sette, che molto si è speso, grande come sai. Direttore della Sette. Beh, adesso grande non cominciare la tua opera di lecchinaggio, come dire. Grande direttore. Cosa disse a Lucia Annunziata sulla trattativa in corso? Io ho detto e ho titolato Santoro un passo dalla Sette. Ed è ancora un passo dalla Sette? È ancora un passo dalla Sette. Confermi questa? Ma sì. Vabbè, Santoro, devo dire la verità, fa subito la vittima, perché dice: il fallimento di questa trattativa è perché mi hanno posto condizioni inaccettabili ed è la prova dell'esistenza del conflitto di interessi. Che vuol dire la prova dell'esistenza del conflitto di interessi? Ci sono state forse, dice lui in questo comunicato, delle pressioni esterne. L'ombra di Berlusconi anche qui, caro Parenzo? Ma adesso l'ombra di Berlusconi anche sulla Sette, questo mi sembra apposta. Una trattativa normale, come avviene nel libero mercato. Beh, lui dice che è colpa del conflitto di interessi, scusa, non dice questo una trattativa normale. Questo non lo so, ma io non conosco le cose così interne della Sette. Io sono un umile, no? Operaio dell'informazione. Siamo televisiva. Tutti utili. Sentiamo che ne pensa un ministro, Gianfranco Rotondi, buonasera. Buonasera, salve. Come sta Rotondi? Dove si trova? Bene, grazie. Sono in una pausa del Consiglio dei Ministri. È preoccupato di non mancare l'appuntamento con voi. Ah beh, la ringrazio di questo. Senta, che grazie, ministro. Senta, signor Rotondi, ma Santoro non fa un po' troppo la vittima? In questo caso dice che tutto è saltato per colpa del conflitto di interessi. Fa capire che dietro forse c'è Berlusconi, perché io leggo da questo comunicato di Santoro: siamo di fronte a una nuova, eloquente, inoppugnabile prova dell'esistenza nel nostro paese di un colossale conflitto di interessi. Addirittura. Eccetera eccetera, poi dice ancora non possiamo fornire le prove dell'esistenza di interventi esterni, ma parla da solo l'interesse industriale che avrebbe avuto la Sette, eccetera eccetera. Rotondi, dica qualcosa lei. Ma sai, in Italia si dà tutta la colpa di quel che avviene dappertutto a Berlusconi, quindi figuriamoci. Dovrei dirglielo in dialetto napoletano quello che penso delle manovre di Santoro. Lo dica. Se non ci stesse offesso, non campasso dritto. Siccome in Italia ci sono molti fessi che dicono che la casta sono i politici, ma applaudono Santoro che se ne va dalla Rai con 2,5 milioni del contribuente, scusa, il fesso chi è? Santoro o chi lo applaude? O chi lo? Cioè, il fesso è Santoro o chi lo applaude? Dico, domando per voi, il fesso chi è? Santoro che se li piglia o i fessi che pagano le tasse, glieli danno e lo applaudono pure? Ah, e quindi, che ne so, dica lei, chi è il fesso? Secondo me, dove ci sta un fesso che applaude il dritto continua a fare il dritto. Quindi mi sembra che la trattativa sia un legittimo gioco al rialzo di un meraviglioso mercante del video. Un meraviglioso mercante del video. Beh, è straordinaria questa cosa qua. Scusi, caro Rotondi, ma il più fesso di tutti chi è in questo caso? Il furbo io, è lui. Io, voi, chi paga le tasse, chi paga il canone, chi alimenta questo mercato. Lei ha parlato di manovre di Santoro, addirittura manovre, trattative. No, trattative. Mercato, parliamoci chiaro. Santoro sta sul mercato. alza il prezzo e il mercato lo segue, il popolo antipasta che bene, dice bene. Che il privilegiato sono io, che i privilegiati sono i deputati, applaude Santoro e lui alza il prezzo, fa tutto parte del mercato. Beh, non è esattamente così la ricostruzione, comunque. Beh, comunque in questo momento è un uomo che è sul mercato, che faccia ascolti e sia appetibile fuori di dubbio, fuori di discussione. Quindi, perché il martirio allora? Perché il martirio? Ma infatti io le devo dire che io non sono mai stato fra quelli che soffrivano per il fatto che stesse in Rai, che facesse la sua trasmissione. Non è una cosa che mi toglieva il sonno la notte, voglio dire. Scusi, ma è fesso chi paga il canone, lei ha detto. Beh, insomma, No, alt, non come mi fa dire quello che non ho detto. Ho detto come i fessi siamo noi che paghiamo il canone. È appunto. Ma è un paradosso, è una provocazione. Noi siamo cittadini onesti, corretti, che pagano il canone, che pagano le tasse. E ci troviamo naturalmente con le nostre tasse, signori che si portano via 2 milioni di cachet, di buonuscita, di liquidazione, insomma, sono cifre che indignano. Beh, lei quella, parla della carta di credito di Minzolini, ovviamente, no? Scusi un attimo, signor Rotondi, lei parla della carta di credito di Minzolini. Vabbè, quello è un altro discorso. Della buonuscita che il signor Santoro ha portato via legittimamente dalla appunto, Rai. Però legittimamente, perché si legittimamente, mentre illegittimamente è la carta di credito del direttore. È quello, sa, io la carta di credito penso, conoscendo Minzolini, che l'abbia usata legittimamente, o se no sono affari individuali sui quali non mi permetto di esprimere. Scusi, però se lei ha detto sì, ma lascia perdere la Corte dei Conti, adesso c'è un'indagine. Ma no, ma lasciamo perdere, che c'entra? Stiamo parlando di Santoro e parli di Minzolini. Ogni volta, ma che c'entra Minzolini? Ma cosa c'entra di Minzolini? La mia domanda è: Minzolini ha più mercato di Santoro? Oddio mio, sempre con sto Minzolini, sempre con Minzolini. E vabbè. Ragionamento, voi mi avete chiesto di Santoro. Allora, premesso che io non sono ostile a Santoro. Sì. Non sono uno, per intenderci, che non ci dormiva la notte, non ho mai visto la sua trasmissione, forse per questo. Come non l'ha mai vista? Mai. Questo non è vero. Figuriamoci mai. Se non ha mai me visto Santoro. Detto, si vede che dimenticate quello che vi dico. Quello mai. Adesso ogni tanto qualcosa, per cui mi è impossibile vedere Santoro come nessun'altra trasmissione. Devo dire che se lui fa una trattativa con la 7 o con chi vuol lui e detta delle condizioni, per la logica del mercato c'ha tutto il diritto di farlo, perché abbiamo inventato un mostro televisivo per cui un signore se ne può andare da una parte con 2 milioni in tasca, andare a trattarne altri due dall'altra parte, ed è il mercato, con l'aggravante che nessuno si indigna, anzi lo applaudono. Scusi, il mostro televisivo chi l'ha creato? Un certo modo di fare televisione per cui il divo del momento che aizza le folle contro il potere diventa lui il potere, ma il popolo non se ne accorge e continua a gridare contro quello che... E continua a pagare, dice lei. Però 2 milioni e mezzo di buonuscita, 2 milioni e 3, è quello che prevede la legge per il contratto che aveva Santoro, che era dipendente, mi sembra di capire. Perché si indigna lei per questo? Non sto dicendo per niente che sia contro legge. Io dico che è secondo la legge anche il fatto che i deputati abbiano la loro paga. Ma io le voglio far vedere su internet la valanga di insulti. E qui arriviamo, per aver detto una ovvietà, che non sono i deputati privilegiati di questo paese, solo che questa ovvietà non viene accettata per una serie di ragioni, alcune delle quali sono anche legittime. Cioè, scusi un attimo, sicuramente non sono i privilegiati in assoluto, su questo non c'è dubbio. Detto questo, risulta che per esempio lo stipendio che prendono i deputati italiani sia in qualche caso, non sempre, il doppio della media europea, caro Rotondi. Ora, permettete di fare un ragionamento conti alla mano, sereno, pacato, senza demagogia da nessuna delle due parti. Facciamo i conti voce per voce di quel che prendono i deputati. Sì. Prendono netto meno di 4.000 euro di stipendio. Poi prendono una voce di rimborso di soggiorno a Roma di 3.700. Sì. Tenete conto che un deputato che non vive a Roma, se dorme tre notti, spende 2.000 euro, se mangia una volta o due al giorno. Io è noto che salto la pausa pranzo, ma la gran parte degli italiani mangia due volte. E stare a Roma per questo signore qui costa tutti e 3.600 euro. Ma c'è la, ma c'è la mensa, ma c'è la mensa, ma c'è la mensa della camera. Tre volte a Roma. Scusi, quanto costa mangiare secondo lei al mese? 3.000 euro per mangiare al mese per un deputato? Ma no, Rotondi, non è così. Sto parlando delle spese che ha un deputato, che metterete nel conto che se questo l'ha eletto qualcuno, deve ricevere qualcuno, deve offrire un pranzo, deve avere un minimo di rappresentanza. Oh, poverino, mi dispiace. Allora, io non sto dicendo che sono cifre da disperati, avete detto bene, sono cifre da privilegiati, però non certamente da casta, vi sono altre caste e le possiamo enumerare, non ci accaniamo sul povero ricco Santoro, ci sono tanti altri privilegiati di questo paese, ma contro cui non c'è l'indignazione che c'è verso i deputati. Ma scusi, Rotondi, un attimo. Premi gratis, autostrada gratis. Vogliamo parlare degli ex? C'è anche una copertina di Panorama che è uscita oggi sugli ex, con la questione delle pensioni o comunque dei vitalizi. È scandalosa quella. Intanto io vorrei che voi mi deste atto, perché siete sempre sportivi, di una cosa. Sì. Avete trovato mai un deputato che è disposto a parlare di queste cose? No, poche volte l'abbiamo trovato, però effettivamente di questo glielo riconosciamo. Mi offro volontario alla gogna, perché voi non troverete un ascoltatore che mi dia ragione, intendiamo? No, nemmeno uno. E ve lo dico io. Però detto questo, 21.000 euro lordi, al di là di questo, circa 21.000 lordi, come no? Assolutamente non è così. Lordi, 21.000 lordi, compreso tutto. Voi mettete dentro il portaborse che... Certo. E che ti deve mettere? Ci sono netti in busta 12.000 euro mese, di cui 4 sono rimborso delle spese che vi ho citato, 4 sono dati al portaborse e 4 restano per la famiglia. Ma io vi voglio raccontare un episodio. Ma come 4 restano per la famiglia? Scusi, che vuol dire 4 restano? 12.000, levano i 4 per il portaborse, quante ne restano? 8. Leva i 3,7 per i soggiorni e rappresentanze a Roma. Ma come i soggiorni? Ma che c'è dei soggiorni? Ma un lavoratore qualunque che da Roma... L'albergo non lo paga. Ma scusami, Rotondi, un lavoratore, un quadro, un dirigente di un'azienda che deve venire a lavorare 3 volte a settimana a Roma da Milano, ed è il caso ad esempio del sottoscritto, ma voglio dire, ma perché devi avere 3.000 euro di rimborsi? Ma te l'ha mica prescritto il medico? Scusa, un lavoratore perché normale non ce li ha. Le aziende che hanno un dirigente di qualità, il rimborso glielo danno. Il problema qual è? Ed io vengo al punto. Sai qual è il vero problema? Io ho fatto delle discussioni su forum in questi giorni di insulti con cittadini che sono stati al mio ragionamento, cioè hanno detto: ok, caro Tondi, tu dici che ai deputati, alla famiglia resta 4.000 euro, vuoi che te lo diciamo? Sono troppi. No, questo no, che c'entra? No, io non credo che restino 4.000 euro, questo è il punto, no? Posso dire, restano alla gran parte dei deputati, non a me, intendiamoci, se proprio vogliamo indicare... A quanto resta lei? A lei quanto resta? Di più, perché io ho casa a Roma, ho famiglia a Roma, quindi mettiamo nel conto che io sia un privilegiato, ma io non sto parlando per me, io sto parlando per il normale deputato medio. La verità è che la gente ritiene che sia troppo anche 4.000. Perché qui intendiamoci, e qui io faccio un'autocritica come classe politica, il nostro problema non è quando veniamo pagati di più o di meno, se ci sono sacrifici da fare è giusto che cominciamo a farli noi, ma la vera umiliazione qual è? È che la gente, mentre reputa socialmente utile il lavoro di Santoro, mentre reputa socialmente utile il lavoro di un magistrato, mentre reputa, socialmente utile il lavoro dei suoi legislatori. No, ma su questo non c'è dubbio, anche per una serie di responsabilità che i politici hanno avuto in tutti questi anni, per carità. È una china pericolosa, perché la furia antipolitica porta alla furia antiparlamentare. E il più grande taglio ai costi della politica l'ha dato il cavalier Benito Mussolini. Allora, 18:48, abbiamo il traffico, torniamo subito, perché proprio per questo è stato interrotto il Consiglio dei Ministri per la questione delle spese della politica. Chissà perché, ce lo spiega fra poco Gianfranco Rotondi. Eccoci, 800 24 00 24. Però, caro ministro Rotondi, lei non può dire che si campa facendo i conti della serva, perché non mi dica che lei fa i conti. Devi rapportarti naturalmente a quelle che sono le spese di chi fa questa attività. Detto questo, io non ti sto dicendo che i deputati si muoiono di fame, tutt'altro. Sto dicendo solo che nella media della busta paga della classe dirigente di questo paese sono il fanalino di coda, ma sono quello che irrita di più. E qui, qui abbiamo fatto il ragionamento, cioè tra la classe dirigente. La sconfitta nostra, sai qual è? E qual è? È che se avessimo un apprezzamento sociale, la gente non starebbe a dire. Su questo non c'è dubbio. La verità è quello che mi preoccupa, non è la contestazione sulla busta paga, perché passa, non siamo eterni in Parlamento. L'amarezza è che abbiamo dedicato la vita a una missione che non porterà i nostri figli ad esserne orgogliosi. Scusi, però lei ha detto anche che Berlusconi in questo momento deve avere una sola preoccupazione: coltivare i rapporti con Camera e Senato, perché ormai. Ecco, io lì ho fatto un solo errore, questa cosa la dovevo dire alla Zanzara. Appunto, bisogna farsi capire bene quando si parla, e purtroppo quando uno fa un'intervista e ne viene pubblicata solo una parte, cioè io non avrei mai detto il titolo del giornale, che pure leggo, che mi piace, che è un bellissimo giornale, ma io non ho mai detto abbiamo perso gli elettori, teniamoci la casta. Naturalmente non smentisco, perché non sono capace di smentire. Però nessuno. Scusi, questa sforbiciata, lei è contrario a una sforbiciata ai costi della politica? Mi dica la verità. Sono favorevole e credo che debba essere più severa, più esigente. Vi faccio un esempio. Ma e ne stiamo discutendo. Scusi, ha detto che è demagogia quella di Tremonti l'altro giorno in un'intervista. È demagogia dire che i deputati sono strabagati e tutte queste cose di cui abbiamo appena parlato. Se il Tremonti invece che dice togliamo di mezzo le auto blu, io gli vado a nozze, perché io, da che sono ministro, sull'auto blu. E lo stipendio dei ministri pare scompare o non scompare? Scompare o no quello? È giustissimo, se ne sta discutendo, ed io sono favorevole a che scompaia. Ma passerà questa roba? Penso di sì, se uno fa il deputato, francamente, non c'è bisogno che prenda un altro. Dunque lei ci sta dicendo che il Consiglio dei Ministri, quando riprende, approverà una. Perché avete interrotto questo Consiglio dei Ministri? State litigando? Perché queste cose di cui parliamo in parte sono competenze del governo, in parte dell'autonomia della Camera, e quindi non possiamo deciderle noi. Comunque sicuramente si deciderà, blu, si deciderà dal primo luglio, scusi un attimo. Sulle auto blu io assumo un'opinione, non da ora, granitica. I ministri ci debbono rinunziare per un solo motivo, perché se ci rinunziano loro non c'è nessun motivo che le abbia chiunque altro in Italia. Ed è un bel risparmio, ed è un fatto anche di immagine, perché la gente sinceramente su questo si irrita, ed io in questo caso credo che non sia demagogia. Che passerà allora alla fine? Un po' di auto blu in meno poi? Beh, io non posso parlare perché è in corso. Ci dia qualche notizia. Politicamente sarebbe scorretto. Credo che andremo ad una indicazione che sarà un riferimento per Camera e Senato per abbassare lo stipendio dei deputati tenendoli nella media europea e possibilmente nella parte bassa della graduatoria. Questo passerà. Con onestà intellettuale. Però poi deve essere approvata dalla Camera. Devo dire che non è una cosa che mi fa impazzire, perché ritengo che non sia il risparmio più eclatante, ma se è una cosa che trova il consenso di tutti, va bene, ma il problema. Quindi lei voterà contro il Consiglio dei Ministri? No, io voto a favore, mi attengo alla decisione. Ritengo che i veri risparmi debbano essere altri. E lo stipendio dei ministri? Abolire le auto blu. Sì. Abolire le province. Abolire il ministero. Dimezzare il numero dei parlamentari. Perché interrogarci sullo stipendio quando siamo in due camere che fanno la stessa cosa, mille persone che non si conoscono. Scusi, ma quello non era, non pare che ci sarà anche un disegno di legge da questo punto di vista? È il programma del nostro governo. Lo so, ma adesso pare che ci sarà. No, invece quello non passerà. Questo, vedete, io nel merito delle proposte, io sono anche molto esigente e sono convinto con voi che queste cose vadano fatte. Quello su cui voglio andare controvento, contromano e litigare con i blogisti di tutta Italia è la rappresentazione della classe parlamentare come una casta ingorda e famelica di soldi. Io su questo non ci posso stare, perché non è una rappresentazione veritiera, e il Parlamento è come la salute. Ti accorgi che è importante solo quando non ce l'hai più. Quello, clima, nessuno lo vuole abolire, però. Un'ultima cosa, però, prima di Rotondi. Dico, dei Tremonti, no? Com'è il clima? Sì, vedete, perché anche Mussolini cominciò con l'aula surda e grigia e il Corriere della Sera applaudiva. Ci può dare una sua definizione di Tremonti? A chi lo paragonerebbe, diciamo, nella letteratura, nella storia? No. Tremonti sta a Berlusconi come Vanoni a De Gasperi. È l'uomo che ha tenuto il timone dell'economia su una stagione su cui il giudizio lo darà la storia, su Vanoni e De Gasperi. Già lo conosciamo, speriamo che con Berlusconi e Tremonti sia altrettanto generosa. Senta, un'ultima cosa, ma secondo lei ci vuole il carcere per i giornalisti per la questione della pubblicazione delle intercettazioni? No. Qualcuno dice di sì. No. Mi devo essere sincero, sulle intercettazioni io la penso come tutto il governo e la gran parte del Parlamento. Ma lei vorrebbe il carcere per i giornalisti o no? No, assolutamente, pubblicarle è una cosa che invade spesso la privacy e che non ha a che fare con le inchieste. Una legge ci vuole, meglio se la facciamo tutti assieme, però con molta onestà non è questo il momento di farla. Oh, non è questo il momento di farla, ci sentiamo dopo. Eccoci qui di nuovo in diretta con la Zanzara alle 19.17 800 24 00 24. Pare sia stato annunciato che non ci sarà la tassa sui SUV. Meno male, caro Parenzo, meno male. Retromarcia clamorosa del governo. Clamorosa, non direi. Poi cosa c'è di nuovo? Nicole Minetti che replica in sostanza a quello che ha detto il PM Forno l'altro giorno, no? Sul bacio saffico, quel meraviglioso bacio saffico con Ruby Rubacuori. Lei dice, domanda di oggi sul Corriere della Sera, la procura dice che lei e Ruby vi siete baciate di fronte a Berlusconi. Non è vero, nella maniera più assoluta quello che dice è falso. I PM l'hanno definita l'amministratore del bordello, sono nata che i bordelli non c'erano. Questa è la risposta di Nicole Minetti, sono nata quando non c'era. Adesso non so se è il caso suo, però si possono fare bordelli anche senza conoscerne nel dettaglio il funzionamento ex lege Merlin. Comunque, per il penultimo giorno la signorina Maristel Polanco ci annuncia. Ma poi che succede, scusa? Stasera avrei una sorpresa, state tutti collegati. È sempre una grande trasmissione. Stasera... Ma Giuseppe Cruciani è un nome, è uno pseudonimo? Di chi, scusa? No, perché mi hanno chiesto, Cruciani è uno pseudonimo, no? No, assolutamente no. Che come Terence Hill e Bud Spencer, no? Perché mi hanno detto, ma lei non si chiamerà mai David Parenzo. Dico sì, vabbè, anche Cruciani è un po' come Bud Spencer e Terence Hill. No. C'è gente nell'isola che crede che davvero sia uno pseudonimo, sia David Parenzo sia Giuseppe Cruciani. Sentiamo Maristel Polanco. Sì, meglio. Buonasera a tutti. In questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire. Con la manovra nuova stangata sugli enti locali, tagli per 9 miliardi, Bersani una bomba d'orologeria, Casini una sconfitta annunciata. Il Consiglio dei Ministri approva il decreto rifiuti, ma il governo si spacca, la Lega vota contro, le regioni, misure che non risolvono il problema. Intercettazioni, testo in aula l'ultima settimana di luglio in coincidenza con la manovra, il PDL se non sarà varato subito lo faremo a settembre. Sulla nomina del nuovo direttore di Banca Italia interviene Napolitano, serve una scelta senza forzature politiche e contrapposizioni personali. Indagato per favoreggiamento il capo della Mobili di Napoli, avrebbe rivelato notizie di indagini sulla camorra, nell'inchiesta anche il nome di Cannavaro. Tra Milano e Bergamo un'azienda licenzia solo le donne, a casa a curare i figli, il loro è il secondo stipendio. Salta l'accordo tra Santoro e La Sette per l'editore e posizioni inconciliabili. Il giornalista parla di una nuova prova del colossale conflitto di interessi. Silvio forever sarà, Silvio realtà, Silvio per sempre. Scapagnini ieri alla Zanzara, Silvio, caro Parenzo, è il caso di ricordarlo, è il caso di ricordarlo. Il medico bis a questo punto di Berlusconi è intervenuto ieri e ha detto, per esempio, che Berlusconi ha ripreso a prendere l'elisir che lui gli dava, fatto di farmaci miracolosi. Quel famoso elisir, cioè, non esiste affatto. Si tratta di sostanze, di estratti vegetali e estratti si chiamano neutraceutici, che sono principi attivi che si estraggono dagli alimenti, che hanno delle potenzialità farmacologiche molto interessanti, molto importanti. Da quando è che avete ripreso questo elisir? E saranno un paio di mesi. Mare attraverserà, ovunque sarà. Poi una sorta di coming out. Anch'io faccio sesso con gli aiutini. Io le dico che ho, diciamo, dopo tutto quello che ho avuto, ho ripreso blandamente la mia attività sessuale e mi sono aiutato con qualcosa e già sta funzionando, sia di pilloline sia anche di iniezioni. E le assicuro che tutte queste fesserie che dicono sulla pericolosità, si tratta invece di trovare quella giusta e senza esagerare, e non esagerare, soprattutto non esagerare. Hai capito? Io caro Parenzo, e tu esageri, tu esageri. Io non esagero. Berlusconi io potrebbe avere rapporti plurimi e ecco, gli ho dato dei consigli su pillole e iniezioni. Questo è il clou poi dell'intervento di ieri di Scapagnini. Prego. Sarebbe in grado di avere una super attività sessuale Berlusconi, secondo lei? Ce la potrebbe fare. Ad avere un'attività, diciamo, superiore alla media. Ha mai prescritto delle pilloline o delle iniezioni anche a Berlusconi? Immagino di sì. No, a questo punto. In questo terreno non mi sono mai addentrato. Vabbè, però lui avrà chiesto dei consigli. Posso prendere questo? Posso non prenderlo? Fa bene, fa male? Certamente. Io ho fornito la mia esperienza medica personale, però di cui naturalmente non posso parlare perché si tratta di una prestazione medica. E va bene, 800 24 00 24. Questo Scapagnina la Zanzara. C'è un personaggio che mi attrae particolarmente, che è Bruno Tabacci, il quale, come sapete, ha un doppio incarico. Ce ne sono tanti, per carità, soprattutto in quota Lega. La cosa curiosa è che il signor Tabacci, assessore di Pisapia a Milano, lo stesso Pisapia che prima delle elezioni aveva sbandierato: è una vergogna, il doppio incarico, noi li elimineremo, e poi ha sopportato Tabacci. Ma questo può accadere in politica, solo i puri, solo quelli che fanno i puri, alla fine. No, trovano qualcuno più puro, esatto, che mi è pura. Volevo che lo dicessi tu. Il signor Tabacci, la cosa curiosa è che ha presentato, siccome è ancora parlamentare, un disegno di legge, una cosa del genere, per eliminare i doppi incarichi. Ora, per eliminare però il suo di doppio incarico, basterebbe solo una cosa, cioè dimettersi o da assessore o da deputato. Però dice: non ho intenzione di stare. Cioè, non ho intenzione di dare un contentino agli altri, non ho intenzione di stare né di peso né sulle spalle, insomma, non ho intenzione di fare la figura del finto tonto. Sentiamo. Ho visto che soprattutto da parte di giovani, anche in buona fede, penso, si è posto il problema di questo mio doppio incarico. Ho voluto andare un po' in profondità sulla questione, perché io non ho nessuna intenzione di stare né di peso né sulle spalle. Ho capito, ma siamo. Cioè, dice: voglio andare a fondo. Che vuol dire? È talmente chiara la cosa. C'è un doppio incarico, ti dimetti dall'uno o dall'altro? Ma non riesco a capire. Siamo un po' sporcaccioni, dice. Sentiamo. Noi siamo un po' sporcaccioni, questo è il problema vero, no? E quindi, siccome se uno non ha un conflitto di interessi non è nessuno, questa cosa qui è diventata uno sport nazionale, ma non va bene. E il costo della politica sta dentro questa cosa qui. Ho capito, ma c'è sempre una sola soluzione, però. Comunque, la Lega ha reso prassi il doppio incarico. La colpa è della Lega. In particolare la Lega ha introdotto praticamente una prassi con la storia del radicamento, perché qui c'è un'impostazione anche tra virgolette ideologica, cioè la Lega è radicata, quindi siccome è radicata la regola è che chi leghista è parlamentare è anche presidente di provincia e sindaco, almeno il sindaco, no? Oppure sono candidati che poi sono magari non ce l'hanno fatta stavolta, penso a quello della provincia di Mantova, ma in generale è così, cioè tutti quelli che stanno qui, siccome sono radicati, hanno anche un altro ruolo. Ho capito, ma tutto questo ragionamento, poi la colpa è della Lega, siamo tutti un po' sporcaccioni, poi ha detto sono pronto a tagliare il mio ramo, ho presentato un disegno di legge, ma l'unica soluzione dal punto di vista personale per Tabacci quale dovrebbe essere? Solo una, no? Uno si dimette da parlamentare. Beh, sì, sarebbe molto facile, dice, come gesto, fino a quando non c'è la mia legge approvata, la mia legge che ho depositato, che è il doppio incarico, fino a quando non c'è questa legge, mi dimetto per dare buon esempio. Dopodiché lui dice: io ho rinunciato allo stipendio di assessore e aspetto che. Ma sì, Parlamento... ma quello è normale, sì, quello è scontato, si prende una sola volta lo stipendio dallo Stato. Ma vari questa legge che io ho presentato. Ma ho capito, ma se presenti una legge, dimettiti, no? Come esempio, no. Sì, questo vorrebbe questo, no? Voglio dire, coerenza vorrebbe questo, certo. Vabbè, questo non Michele da Verona, da Michele da Verona, buonasera. Sì, Michele da Verona. Un ascoltatore. Buonasera. Ah, ottimo. Dica, signor Michele. Buonasera a tutti e due, Cruciani e Parenzo. Senti, io volevo intervenire sul discorso lì di Santoro dei 2 milioni di euro, di questi, tutta questa polemica qua che è nata, che mi sembra abbastanza assurda. Io sposterei un po' il tiro per quanto mi riguarda, visto che sono quelle poche trasmissioni che secondo me in Rai erano guardabili. Su tutti allora? quegli opinionisti del pomeriggio un po' improbabili, da Giletti. Andrei che a c'entra Giletti? È un'altra cosa Giletti? È un altro programma, un altro tipo Vittorio di forma. Sgarbi, Vittorio Sgarbi, vorrei sapere cos'è costato il suo programma, sì, il suo cachet e gli ascolti che ha fatto. Vabbè, insomma, a lei piace Santoro, allora? Allora, mi sembra una pagliacciata che il ministro venga a cercare di farsi indignare per un buon uscita che ha voluto Santoro, che io sono uno che vado a lavorare, ragiono su altre cifre e potrei anche indignarmi, ma in realtà mi rendo anche conto che ragioniamo su due pianeti diversi, io e loro. Va bene. Grazie. Fernando da Chieti. Sì, buonasera Cruciani. Buonasera. Niente. Riferendomi sempre a Santoro, dicevo prima alla sua, sì, che diceva? Diciamo, interlocutrice, ma non è che alla 7 magari l'editore potrebbe averci ripensato, non tanto per i soldi, perché le trasmissioni di Santoro, Volere o Volare, hanno sempre trascinato, come dire, delle polemiche a fine trasmissione. Dunque lei dice Santoro potrebbe dar fastidio, ma lo sapevano anche prima, non è che non lo sapevano. Sì, però evidentemente penso, sia ben chiaro, essendo una televisione, diciamo, più piccola rispetto alla Rai o a Mediaset, quasi quasi loro stanno facendo, come dire, un pochettino di maretta, che poi io alla fine penso che questo l'accordo lo faranno. Va bene, grazie, abbiamo la borsa, torniamo subito. Eccoci, 800 24 00 24, caro Parenzo, con Enrico, sì, Mentana, che dice che la 7 deve spiegare quello che è accaduto. Le parole di Santoro a commento dell'avvenuta rottura sono durissime, fanno riferimento alla persistenza di un gigantesco conflitto di interessi in Italia. Le tesi neanche tanto pelate che a bloccare tutto sia stato Berlusconi. In qualche modo non soltanto la Rai e Mediaset, ma anche la 7 deve tenere conto del fatto che se lui non vuole le cose non si fanno. È il momento dell'amarezza. E quindi si capisce, questo giudizio è praticamente duro, ma per amore di verità e per amore di libertà sarebbe opportuno proprio che la 7 spiegasse, se come spero può farlo, che la decisione di rompere, di interrompere le trattative è soltanto sua, eccetera, eccetera. Poi penso, ottimo, che bisogna riprendere le trattative. Dunque è Mentana che suggerisce alla 7, che è la sua rete, di spiegare che la rottura non è stata provocata da Berlusconi, ma insomma, anche se fosse stato così, la 7 non lo direbbe, per cui mi sembra una richiesta anche scontata, no? Cioè, no, però quasi a dire, cioè, questo qui lui dice, ho capito, ma fosse anche, ho capito, ma fosse vero che è stato Berlusconi a chiamare qualcuno a fare pressioni perché Santoro non andasse alla 7, secondo te c'è qualcuno che potrebbe dirlo? Evidentemente non può dirlo, ma è chiaro che è abbastanza ironica la cosa, credo, perché come si fa a pensare che dietro la tele di oggi ci sia ancora per ma no, ma pressioni ci possono essere. Pressioni, ma è uno scenario televisivo completamente diverso. Ci sono state pressioni anche per non far andare lo stesso Mentana, no? Per un anno, andate in esilio per un anno, certo. Potrebbe anche essere, però se uno non ha le prove, di che parliamo? Dopodiché uno potrebbe fare come Funari, cioè Funari a un certo punto andò, quando né Mediaset né la Rai lo voleva, Funari andò in una serie di reti private, cioè, ci sono anche quelle, no? O no? O Santoro non può andare in una rete privata? Potrebbe mettere insieme un circuito di reti private, come ha fatto per l'ultima cosa della FIOM, no? Grande successo delle TV locali in cui hanno trasmesso il suo evento della FIOM. Cioè, ancora ho capito. Giuseppe da Brindisi, buonasera. Buonasera. Giuseppe, dica. Pronto? Sì, buonasera. Lei a tutti gli ascoltatori, con il dottor Parenzo. Niente, adesso che lei ha fatto la precisazione, per quanto ha precisato appunto Enrico Mentana, e mentre ero in attesa, io avevo avuto la vaga sensazione che la rottura fra Santoro e la 7 fosse scaturita proprio da qualche notizia aleatoria che a me era giunta rispetto al fatto che Berlusconi sarebbe entrato nella 7. Tutto questo io lo collegavo. Che c'entra Berlusconi con la 7? Mi sembra un'ipotesi fantasmagorica questa. Di che stiamo parlando? Il timore di Mentana quando chiede che la... Ma non c'entra niente, questa è un'ipotesi inverosimile, impossibile. Che c'entra? Ho capito, Giuseppe, ma come si può pensare, a parte che sarebbe, credo, dal punto di vista legislativo impossibile. Ma lei immagina la ragione per cui sia stato censurato Santoro nella sua libertà E se voi domani si fosse trovato di fronte a Berlusconi, ma non c'entra nulla, è impossibile che Berlusconi entri nel capitale della Sette. Non voglio mettere il carro davanti ai buoi. Vabbè, ad ogni modo, però parliamo di cose concrete, non di cose inesistenti, sì, impossibili, abbia pazienza. Ma vede che l'aria è troppo dolce in Italia, è facile. Ma non c'entra niente l'aria dolce, ma non c'entra niente né l'aria dolce né l'aria amara, non c'entra nulla. Le ho telefonato perché proprio sono stato sollecitato e non mi pare di avere il tono esatto della sintesi quando ho sentito il ministro Rotondi. Insomma, lui, come anche il Castelli, in alcune trasmissioni dicono: ma perché con i soldi nostri dobbiamo assistere al Santoro? Io non sono un difensore di Santoro nel senso più religioso, però voglio dire a costoro: ci sta il telecomando, possiamo cambiare canale. No, veramente adesso io non voglio difendere né Castelli né Rotondi, ma non è che hanno detto che con i soldi nostri perché dobbiamo spendere i soldi nostri per ascoltare Santoro? Il ministro Castelli pure diceva con i soldi nostri del canone. Non voglio sentire Travaglio, che è una cosa diversa. Giuseppe, la ringrazio. Gigi da Catania, buonasera. Non dà spazio, no, infatti non do spazio. Così, sì, infatti non do spazio. Dobbiamo sorbire noi il ministro Rotondi. Va bene. E dice perché si soldi a Santoro? Ma Santoro possono fare anche dei libri. Ma non ha detto questo. Non ha detto questo. Gigi da Catania, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Buonasera a tutti voi. Io cambio il mio intervento. Avevo detto ai vostri collaboratori di al solito. Gigi, lei può intervenire su quello che vuole. Basta che non si trattenga su cose inutili. Semplicemente sul sindaco Scapagnini. Io sono di Catania, ovviamente, come ho capito, ma Scapagnini non ha parlato come sindaco di Catania, ha parlato come ex sindaco di Catania, ha parlato sotto un'altra veste. Adesso di cosa ci vogliamo occupare? Vabbè, comunque faccio brevissimo e dico che avrebbe fatto meglio ad occuparsi di quel genere di buchi di cui parlava ieri a proposito del Presidente del Consiglio, piuttosto che lasciare il buco da 140 milioni benissimo di euro. Ho capito. Va bene. Questo. Va bene, Gigi, grazie. Daniele da Pordenone, buonasera. Sì, buonasera Cruzzale. Vediamo buonasera se troviamo Parenzo. una telefonata degna di questo nome questa sera. Daniele, dica. Buonasera Cruzzale Parenzo. Io volevo fargli una domanda a lei, sì, però prima le volevo dire su cosa. Ieri sera lei ha iniziamo avuto bene quel signore che stava per morire, Scapagnini, no? Se non sbaglio. Questo povero uomo le voleva parlare del suo libro che ha scritto sulla sua esperienza che ha avuto. Sì. E lei continuava a chiedergli cosa ha mandato Berlusconi, a che ora vado a vedere Berlusconi, cosa prende per fare sesso Berlusconi. Ecco, io volevo fargli questa domanda. Sì. Perché non si fa un regalo a noi ascoltatori della Zanzara? Sì. Perché non chiama Berlusconi ospite una sera nel suo programma e gli chiede tutte queste cose? Ma è un'idea geniale. Un'idea originale, no? Geniale. Lei ha già provato altre volte, penso di sì, non so. Però lo chiami, perché altre volte lei, anche quando ha avuto ospiti, gli chiedeva sempre cosa fa Berlusconi, questo, quell'altro. Lo chiami direttamente. Lei dice che sono ossessionato, No, guarda, io di lei sono un'opinione, lei per me è un grande, l'ascolto sempre. E allora? Allora volevo solo dirgli questo, ci faccio un regalo a noi, lo chiami e gli chiedo tutto quello che vuole. Bene. Basta, sì, non voglio attaccare prima con lei. Le pare facile secondo lei? No, però se vuole lo fa. Daniele, grazie. Ciro da Napoli, buonasera. Grazie. Signor Ciro, buonasera, Cruciani. Sì. Cruciani? Sì, la sento, dica. Sì. Buonasera Luciani, complimenti a lei e a Parenzo. Sì, stasera una gabbia di matti, Parenzo. Ascolti, la gabbia di matti stasera, tutti matti. Mia, sono usciti tutti dal manicomio, amico mio, tutti qua. Tutti qua stanno chiamando, evviva. Cioè, quando uscite, scusi, voglio capire, quando uscite vi danno il numero di telefono 89 24 24? Cioè quando uno esce dall'ospedale e psichiatra, ecco funziona? Il numero per chiamare. Ecco il numero per chiamare, e ci chiamate la Zanzara, così, ecco, funziona così, no? Dica Ciro, dica. Senta Cruciani, io volevo dire questo. Di fronte alle affermazioni del ministro Rotondi, sì. Io spero che lei non abbia creduto alla favoletta che ha raccontato agli italiani. E quantomeno, se avesse ragione, perché non pubblica il suo stadino paga? Così vediamo se... Ma qual è la favoletta? Mi scusi, qual è la favoletta? Quella lì che da uno stipendio di 22.000 euro e... Lordi. Lui porta circa 4.000 euro a casa. Allora, lui ha detto sono 12.000 netti, sono 12.000 netti, secondo lui più o meno le cifre coincidono. 4.000 li spendo per gli assistenti, 4.000 per varie spese, restano 8 e 4, restano 4.000 da mettersi in tasca. Benissimo. Questa è... A Allora, io e non mi pare una cifra così folle, avere 4.000 euro di risparmio a mese, comunque in ogni caso. Bravo, bravo, io sono d'accordo con lei, però io invito il ministro Rodonti, se non ce la fa a vivere con 4.000 euro o sì, sono pochi, lasciate il posto, tanto uno degli italiani, tanti italiani sono bravi quanto lui a fare politica. Ho capito, i soldi sono sempre quelli però. Come? I soldi sono sempre quelli poi. Sì, ma capisce lei, Bruciani? Sì, no, ma ho capito, ma la risposta è più facile, se uno deve piangere miseria, allora perché continua a fare deputato? Però è una risposta abbastanza assurda, Ciro, non c'entra niente con il cuore del ragionamento, se vogliamo chiamarlo così, di Rotondi, che dice ci tirano le pietre addosso, siamo considerati la super casta, in realtà ci sono altre caste, non siamo noi l'unica casta, non siamo i super privilegiati, siamo privilegiati ma non siamo i peggiori, questo ha detto, cosa vuole che le dica? È così, non bisognerebbe dirlo, bisognerebbe semplicemente dire bisogna abbassare i nostri compensi, bisogna adeguarli, punto e basta. Però i treni gratis quando uno non è più deputato. Beh, cioè dire che alla fine restano 4.000 euro per alla fine del mese, dopo tutte le spese restano 4.000 euro, piangere sostanzialmente miseria, come ho sentito prima, non piangere miseria, comunque dire alla fine per alcuni deputati addirittura si tira a campare, adesso questo mi pare un po' eccessivo. Grazie Ciro, 800 24 00 24. Andiamo con uno dei consiglieri di amministrazione della RAI, Nino Rizzo Nervo, buonasera. Buonasera. Come sta? Sta abbastanza bene. Senta, la sorpresa questa rottura tra Santoro e la 7? Ma ho avuto la percezione che era nell'aria, francamente. Come mai? Tutti davano per certo... Non lo so come mai, deve chiedere a loro, non a me. No, ho capito. No, perché era nell'aria. Perché era nell'aria, sentiva, secondo lei? Ma perché avrei trovato naturale che Santoro e la sua trasmissione venissero presentati l'altro giorno ai palinsesti alla 7. Ah, ecco, lei dice, siccome non è stato presentato, evidentemente c'era già qualcosa che non andava, anche se proprio durante la presentazione dei palinsesti alla 7 il signor Stella, che è il grande capo, ha detto, beh, insomma, è quasi fatta, eccetera, eccetera. Ma lei lo rivorrebbe subito, Santoro, alla RAI? Ma guardi, io non l'avrei fatta andare via. E quindi... questo sicuro. Ma c'è qualche speranza a questo punto? Ma guardi, io ho posto un problema, che discuteremo nel Consiglio del 7 luglio, cioè che gli accordi che sono stati fatti con Santoro per questa uscita, che devo dire è stata consensuale tra il stesso Santoro, cioè non è stato Berlusconi a cacciarlo, il nuovo direttore generale, è stata un'uscita consensuale, secondo me però che quegli accordi non rientravano nei poteri del direttore generale, per cui quantomeno ci vuole un voto del Consiglio. Io credo che che abbia ragione, è stato chiesto un parere in tal senso al Collegio dei Sindaci, addirittura questo parere sarà fornito e se ho ragione io allora il Consiglio dovrà votare, ognuno dei 9 consiglieri si assumerà responsabilmente la responsabilità di avere o non avere Santoro. Vabbè, ma questa è una questione di lana caprina, Rizzo Nervo. Non è una questione di lana caprina, perché se il direttore generale, scusi un attimo, è giusto che su Santoro decidesse il Consiglio, perché Santoro è una risorsa pregiata dell'azienda, una risorsa importante, quindi già questo secondo me non rientrava nei poteri del direttore generale. Scusi, il direttore generale ha fatto qualcosa di illegale, secondo lei? No, di illegale. C'è uno statuto che dà dei poteri di procura, di firma. Di cioè, non poteva firmare la fuoriuscita di Santoro, secondo lei? Bravo, poteva secondo me proporla in quei termini al Consiglio di amministrazione e poi avrebbe dovuto decidere il Consiglio di amministrazione. Comunque, una volta che la situazione con la 7 pare che sia compromessa, ci sono buone possibilità che adesso la RAI ci riprovi oppure ormai la questione è chiusa? No, le ripeto, la questione è assolutamente chiusa, se ne occuperà il Consiglio di amministrazione il 7. No, luglio. Ho capito, ma al di là di questo, c'è secondo lei la volontà da parte dell'azienda di riprendere Santoro oppure le porte sono chiuse? Questa è un'azienda, come le vede, è un'azienda abbastanza complessa, non è un editore unico, quindi allora questo posso dire che c'è la volontà di un gruppo di consiglieri di riprendere Santoro, speriamo che questo gruppo di consiglieri possa esprimere 5 voti la prossima volta. Vabbè, chi sarebbero quelli favorevoli? Quelli intanto che si sono espressi, io, Giorgio Vastrate e Rodolfo De Laurenti, se siamo favorevoli. Quindi, siete in 3, gli altri 2 dove li andate a prendere? Gli altri 2 saranno qua il 7 luglio, possono succedere tante cose, quindi io non dispero, ecco. Ma però anche, interessante, è giusto, eh? Anche con l'accordo di un euro? Anche con quell'accordo di un euro oppure no? Quella è una buttata. Guardi, se Santoro si vuole riprendere, si riprende, è giusto che si riprende non facendolo andare via, francamente. Quindi, cioè a costi di mercato? Il discorso dell'accordo di un euro sarebbe superato. Ah. Dunque, se Santoro lo si riprende a costi di mercato? Come si riprende ai costi che avevamo prima quando Santoro stava dentro la Rai. Ah. Senta, ma Santoro anche che perché questo mercato non lo vedo, francamente. Beh, insomma, il mercato c'è. Sì, però francamente non lo... Guardi, io avevo detto che tutto sommato questa vicenda aveva un aspetto positivo rispetto al passato, ad esempio al 2001 quando fu l'editto bulgaro. Che mentre allora sul mercato c'eravamo sostanzialmente soltanto noi e Mediaset, non c'era quindi una televisione alternativa alla Rai nel momento in cui la Rai non fece lavorare Enzo Biagi e Michele Santoro. Oggi avevo detto, forse l'amministratore della Rai, la vicenda non mi piace, non sono d'accordo, da cittadino di questo paese dico però per fortuna il mercato è cambiato e quindi se Santoro non lavorerà e può lavorare da un'altra parte. E vabbè, non ha raggiunto l'accordo. Purtroppo i fatti mi hanno smentito, ma non mi sembra che si sia trattato di un problema economico. Cioè, secondo lei dietro c'è Berlusconi? Dalla lettura che ho fatto, io non so se dietro c'è Berlusconi, io so che se non si risolve il problema del conflitto di interesse in questo paese, di questi problemi li avremo a piasso spinto. No, però mi scusi, da quello che sappiamo, signor Rizzonervo, c'è un'azienda, la Telecom, che non mi pare che abbia nel suo capitale anche Berlusconi o familiari di Berlusconi, e che fa attraverso Telecom Italia Media fa una trattativa con Santoro. A un certo punto questa trattativa si interrompe perché Santoro dice che gli hanno posto condizioni inaccettabili, eccetera eccetera. Mentana fa capire che l'azienda deve chiarire perché altrimenti la questione del conflitto di interessi, come si fa a dire che la questione del conflitto di interessi è stata decisiva nella rottura delle trattative tra... No, io non sto dicendo che è stata decisiva, io osservo quello che vedo e quello che leggo, cioè mi sembra francamente strano che dopo gli annunci roboanti della 7 che Santoro andava alla 7, alla fine della trattativa si interrompe, così come ho letto credo nel comunicato di Team Media, perché non si è trovato l'accordo sulla gestione del rapporto editore giornalista. Cioè c'è una manina che è intervenuta dall'esterno. Credo che questi accordi si rompono dal punto di vista economico, non dal punto di vista normativo. Cioè c'è una manina che è intervenuta dall'esterno, qualcuno che ha fatto delle telefonate. La mia esperienza mi dice che di solito questi accordi si rompono sul terreno economico, non sul terreno normativo dei contratti. Dunque, insomma, però al di là delle lei è convinto, o comunque lei pensa che, siccome ha detto se non si risolve il conflitto di interessi non si risolve nulla, e che anche questo non c'è dubbio, perché il conflitto di interessi continua secondo me a e in questo caso come si sarebbe strinzecato il mercato televisivo nel nostro però paese, c'è Sky, c'è anche sempre Sky, no? Scusi, però come si è strinzecato in questo, come si sarebbe strinzecato il conflitto di interessi, come si sarebbe manifestato? Non lo so, io so che da due mesi i giornali non fanno altro che parlare del fatto che Santoro era quasi già andato alla 7, addirittura andato, e oggi vedo che Santoro non c'è andato, punto. Ognuno può fare le sue considerazioni, io faccio le mie e lei fa le sue. E le sue quali sono? Le sue mi sono state, io credo che anche in questa vicenda abbia influito il conflitto di interesse, poi non lo so, sbaglierò. Il conflitto di interesse è quale? Quello di Berlusconi? Lo dico molto sommessamente, sicuramente non il mio. No, quello di Berlusconi, dunque il conflitto di interesse di Berlusconi ha influito in questa vicenda. Il conflitto di interesse di Berlusconi influisce secondo me in ogni vicenda editoriale in questo paese, capito? In tutte le vicende editoriali, in tutte. In tutte le vicende editoriali c'è, come dire, la questione del conflitto di interessi esiste. No, ma perché? Mica ho detto che è una follia, sto dicendo che la sua tesi la sto ribadendo. Però la 7 per fortuna è cresciuta nonostante lo strapotere berlusconiano. Però una questione del conflitto di interessi si pone la questione anche Mentana, pochi minuti fa, non è che lo dice uno. Vuoi ascoltare le parole esatte che ha usato Mentana? E dopo te le faccio riascoltare. No, non è nel TG, perché il TG come sai è alle 20. È in una trasmissione su Dimensione Suono, la sua trasmissione su Dimensione Suono. Senta, ma la Rai, fuori Simona Ventura, Santoro abbiamo già parlato, Simona Ventura poi anche l'annunziata, c'è un problema di gestione? No, la Rai sta vivendo un problema drammatico, non un problema di gestione. Se non ha la forza di interrompere con forti atti di discontinuità quello che è successo in questi ultimi due anni io non sono molto preoccupato per quello che può accadere alla... Addirittura un problema drammatico, dice lei. Sì, un problema drammatico, perché quando un'azienda, io credo che questo sia il motivo, viene percepita all'esterno come un'azienda che non è più trainante nel settore, ma che si sta indebolendo, si sta indebolendo, vuol dire che questa percezione è dovuta ad atti o a inerzie compiute in questi ultimi due anni. Le faccio una battuta: se Masi, invece di parlare ogni giorno con Bisignani, l'ho già detto al Corriere della Sera l'altro giorno, invece di parlare, avesse parlato con i professionisti e gli artisti di questa azienda e avesse lavorato per questa azienda, forse tutti questi strappi non ci sarebbero stati. La cosa grave nell'avventura, nella vicenda dell'avventura, è che non è che l'avventura va via perché il mercato è competitivo, io non ho idea che contratto. Magari vuole fare nuove esperienze, no? Non v'è dubbio, però è anche vero che la mia sensazione è che sia andata via per una inerzia da parte dell'azienda. Poi è logico che lei è una professionista, voglia fare nuove esperienze, probabilmente ad un'azienda che non si era fatta più sentire, che con il suo contratto in scadenza al 31 agosto ha accettato le offerte. Scusi, la cosa più grave, sa qual è la cosa più grave dell'avventura? Che l'azienda non ne sapeva nulla. L'avventura è ancora sotto contratto da noi fino al 31 agosto e l'azienda non ne sapeva nulla. Questo lo trovo di una gravità eccezionale. Non sapeva nulla di cosa? Che era sotto contratto? L'azienda non sapeva nulla che sarebbe andata a Sky. Vabbè, l'ha annunciato lei. Ma le trattative in genere è difficile che uno sappia quelle. Vabbè. Io dico che un artista se ne può andare, un'azienda può... Lei dice non c'è stato colloquio, non c'è stato rapporto. Io dico che un'azienda può decidere di non avere un artista, di non avere un professionista, un giornalista, quello, però lo deve decidere, e anche nel momento in cui lo decide capire cosa, che progetta avere per un altro artista omologo. Ma perdere gli artisti per inerzia, come secondo me si è persa l'avventura, allora questo è un gravissimo danno. Senta, ma nell'elenco, se vogliamo, nella classifica delle responsabilità, il primo di questa situazione drammatica che lei ci ha spiegato, qual è il primo responsabile? Berlusconi? No, non è un problema di gradatoria, cioè, può essere, può fare effetto dire chi è il primo, che è il secondo, che è il terzo. Questo è il risultato di un'azienda che da due anni a questa parte, da quando dalla direzione generale Masi, ha lavorato contro se stessa. Lei ha mai visto un'azienda che lavora contro se stessa? Questi sono i risultati. Scusi, però l'annunziata ha litigato col direttore Ruffini, non è che è una questione che riguarda conflitto di interesse? Ma l'ha fatto, l'annunziata ha litigato col direttore Ruffini, probabilmente questa cosa si ricompone, perché non mi sembra... Secondo l'annunziata non c'è nessun margine, però vedremo. Non lo so, poi vediamo. I notti portano consiglio e non c'è... Ma chi ha sbagliato? Lei a fare quell'intervista parlando di mafia? Consiglio. Ma guardi, probabilmente c'è un fraintendimento. Io quell'intervista non l'avrei fatta, glielo dissi allora all'uscita, e forse avrei anche approfittato, avrei fatto in modo di correggerla quell'intervista. Detto questo, invece, però, lei l'ha ribadita quell'intervista, ce l'ha confermata. Sì, voglio dire. Come si fa a continuare a lavorare in un posto in cui si definisce il direttore di rete, o comunque quella rete, una rete in cui prevalgono le mafie e varie cose? Detto questo, mi sembra, posso anche ritenere che quello tra l'annunziata e Rai 3, e poi la Rai non è solo Rai 3, che tra l'annunziata e Rai 3 si possa anche ricomporre nei prossimi giorni, e lo inserisco in una dialettica normale, anche dura, anche aspra, che può esserci in un'azienda di comunicazione così grande come la perdita maggiore qual è stata? Ventura, Santoro o l'annunziata? In ordine. Ma guardi, non è un problema di perdita maggiore. No, in perdita sono tutte perdite importanti, quindi non cado nella trappola della classifica, il famosino chi butta dalla torre questo o quell'altro, perché lo trovo francamente inutile. È il risultato di una Rai che in questi due anni ha lavorato contro se stessa. Tutto si è a favore di chi? Tutto si è spappolato. Ma guardi, ma basta, ma legga le intercettazioni che ha pubblicato Repubblica della vicenda del 2000, di qualche anno fa. Mi annoiano fortemente, però a me mi annoiano, ma sono molto indicativi. Cioè, ha lavorato a favore di Mediaset, dice lei? Insomma, a me annoiano, a favore, una volta a favore di Mediaset, un'altra volta a favore della maggioranza di governo, un'altra volta a favore di qualche altro. Quello però nel 2005, lei dice, in questi due anni la situazione non è cambiata. Guardi, in questi due anni la situazione si è aggravata, non è che mai sotto gli occhi di tutti, francamente. Allora, abbiamo la pubblicità, torniamo subito, ci resta ancora qualche minuto con Nino Rizzo Nervo, consiglio di amministrazione della Rai. Eccoci, 800 24 00 24. Caro Parenzo, hai qualcosa da chiedere al signor Rizzonerbo? Sì, volevo capire questo, perché Santoro in passato aveva tirato in ballo anche il presidente della RAI, cioè ha detto, ma insomma anche il presidente dovrebbe dire se mi vuole o no. Ecco, non pensa che sia stato un po' silenzioso forse in quest'ultimo periodo il presidente della RAI? Ma guardi, questo non lo penso assolutamente, anzi devo dire che nell'ultimo periodo il presidente silenzioso non lo è stato affatto nelle vicende, ad esempio, degli ultimi 10 giorni. Quindi. Dunque su Garimberti Santoro ha sbagliato? Questo volevo capire. Su Garimberti non lo so. Cioè, Santoro ha sbagliato puntata, in quei giudizi molto duri che ha dato su Garimberti. Santoro ha sbagliato. Ha sempre sbagliato la personalizzazione della vicenda annunziata Ruffini. E quello è però. Che queste personalizzazioni sono totalmente sbagliate. Santoro c'ha ragione nel momento in cui dice: ho lavorato per una stagione dovendo difendere ogni volta con i denti il mio programma. Ho capito, poi ha attaccato però il presidente della RAI dicendo che non si è esposto. Non è così, la personalizzazione non è che la facciamo noi. La personalizzazione. No, ma io non sto dicendo che sbagliate voi a fare la personalizzazione, io dico che è stata sbagliata la personalizzazione fatta da Santoro, su questo non dico che la personalizzazione è stata sbagliata. Dunque ha sbagliato ad attaccare il presidente della RAI, che aveva qualche responsabilità nella vicenda Santoro, Garimberti o no? Ma guardi, io non credo che il presidente abbia responsabilità sulla vicenda Santoro, non rientrava né nei suoi poteri né nelle sue prerogative poter dire facciamo l'accordo con Santoro o non facciamo l'accordo con Santoro, quindi assolutamente. Senta, sempre a proposito della questione della RAI in questo momento, oggi in un'intervista al Corriere della Sera il direttore di RAI 2, Lio Fredi, dice che alcune decisioni sono state prese sopra la sua testa, che non ne sapeva nulla, ma le pare possibile che uno decida la conduzione di un programma importante, per esempio come quelli che è il calcio, senza consultare il direttore di rete, che voleva un'altra soluzione? Ma guardi, ma questo è uno dei problemi di oggi, perché è possibile, è il problema più grave, più grosso forse di questa stagione, perché è possibile decidere senza il direttore di rete se rinnovare i contratti a Fazio, alla Gabbanelli, a Floris e a tutti gli altri. C'è stato in questi 2 anni, più che nel passato, peraltro secondo me nel passato non vi era stato il tentativo, in alcuni casi riuscito, di annientamento totale dell'autonomia del direttore di rete, con una verticalizzazione decisionale dell'azienda che non ha che ha portato l'azienda allo stato, secondo me, gravissimo in cui oggi. Però adesso, al di là di quello che è successo nel passato, la questione di Rai 2, Lio Fredi ha ragione quando dice che viene esautorato, che hanno deciso senza consultarmi, eccetera eccetera. Qualcuno lo vuole fare ancora fuori o no? No, qualcuno vuole fare ancora fuori, non lo so. Se non è stato consultato nel rinnovo del contratto all'avventura, nella decisione di prendere la Cabello o in altre decisioni che riguardano la sfera e l'autonomia dei direttori di rete, ha ragione. Senta, ma lei l'avrebbe presa la Cabello a fare quelli del calcio, come dice Lio Fredi, è inadeguata, cioè non va bene? No, guardi, io non esprimo il giudizio. Quando farò il direttore di rete, o se domani dovessi farlo, ma non lo farò mai, esprimerò dei giudizi. Ognuno deve, secondo me, deve stare nei suoi ruoli. Il mio ruolo non è quello di dare giudizi di questo tipo. Vabbè, però, quindi, che c'è, come si dà un giudizio su Santoro come conduttore, si può dare un giudizio anche come... anche come, no, la Cabello o l'ipotesi che prevedeva. No, il giudizio su Santoro come conduttore è un giudizio su quello che Santoro ha fatto in Rai, quanto ha reso Santoro e la sua trasmissione alla Rai, quindi è un giudizio su cosa è avvenuto, è un giudizio su quel conduttore va bene per questa cosa nuova o quel conduttore va bene per impiazzare quell'altro, non spetta a me darlo e non lo do. Ma un direttore, secondo lei, sostituito può fare causa? Cioè Lio Fredi pare che voglia fare causa se venisse sostituito, per esempio, da Paragone, no? Ma se queste sono decisioni personali sue, no? Però non si può andare avanti a cause, no? Di direttore. Però non credo, appunto, che un'azienda si possa governare a cause, dopodiché però queste sono decisioni esclusivamente legate alla personali. Si spolpa l'azienda, cioè. Io spero che non ci siano, altre cause, se vuole la mia. E perché non si gestisce in questo modo, ma se un direttore fa causa probabilmente la fa anche perché il rapporto tra quel direttore e l'azienda non è stato tenuto sui binari normali di un rapporto tra un direttore ed un editore. Va bene. Dal 94 a oggi questo è il momento più drammatico della RAI, cioè del momento di declino del berlusconismo, questo se per lei è il momento più difficile. Infatti può apparire una contraddizione, è così, perché la RAI vive una crisi economica molto forte, una crisi di credibilità molto forte, basta vedere i dati d'ascolto del TG1, dell'ultimo sì. mese, e purtroppo è così, nel momento che sembra di maggior declino del berlusconismo c'è anche il maggior declino della Rai. E come mai secondo lei? Perché? Ma perché le colpo ultime di coda, scelte, colpo di coda. Le scelte più recenti da parte del berlusconismo sono state scelte che non hanno mai avuto alcun minimo di logica aziendale. Direttori generali, diciamo, indicati da Berlusconi ci sono stati, ma sono stati nell'ambito, ad esempio, dei manager, poi più vicino a Berlusconi che ad altri. Quando si nomina il segretario generale alla presidenza del Consiglio avviene il declino. E invece quest'ultimo... Questo gruppo prenderebbe mai un segretario generale alla presidenza del Consiglio a fare l'amministratore delegato del gruppo? E invece Lorenza, lei? Lorenza, lei, io spero che abbia il coraggio di avere una forte discontinuità col presidente direttore. E finora l'ha dimostrato? Tutto nelle sue mani. Finora l'ha dimostrato? Finora il giudizio da parte mia è sospeso, perché non ho visto queste discontinuità, però non ho visto neanche che siano stati adottati dei provvedimenti che possono essere giudicati in continuità. Adesso sta tutto a lei. Però ha risolto il contratto con Santoro, insomma, da un certo punto di vista, no? Ma sa, ha risolto il contratto con Santoro, ma l'ha risolto in via consensuale, quindi già questo da un certo punto di vista era un passo avanti. Che da lei Santoro non l'ha cacciato. Hanno risolto consensualmente un rapporto dove anche Michele probabilmente vorrà fare nuove esperienze, tant'è che aveva contatti con la sette. Dunque, che voto darebbe fino a Lorenza Lei? Ma mi sembra che in un mese non si possono dare voti. Che ne so, 5, 5 e mezzo, 6? In un mese credo che non si possano dare voti. Un mese, però sono successe varie cose in questo mese. Cioè, adesso chi resta alla RAI? Chi resta? Le figure della RAI, quali sono? I volti della RAI dopo questa fuga, dopo questo fuggi-fuggi, chi è rimasto? Però sa, alla fine un mese fa leggevamo che tutta la squadra di Re3 dovesse andare alla 7. Io mi sembra che la 7 stia rimanendo con un pugno di mosche. Avrà Saviano per 6, ed è stato un errore perderlo, lo dico. Avrà Saviano, a quanto leggo, per 6 speciali nella primavera del prossimo anno, con un contratto non in esclusiva, tra l'altro, ma tutta questa fuga di grupponi interi da Rai alla 7 francamente ancora non l'ho vista. No, effettivamente non c'è stata. E il programma di Sgarbi quanto è costato? Alla fine ci sono vari. Il programma di Sgarbi è uscito su tutti i giornali, hanno detto, sono cifre oltre 8 milioni buttati al vento. 8 milioni buttati al vento. Una cosa gravissima, secondo lei, gravissima. Consideri questo, che le condizioni dell'azienda in questo momento dal punto di vista dei propri bilanci sono tali che forse a luglio non potrebbe non pagare il premio di rendimento ai impiegati, operai e dipendenti, che vale credo 14 milioni, quindi solo 6 milioni degli 8 milioni buttati per Sgarbi. Chi dovrebbe pagarli questi? Berlusconi dovrebbe tirarli fuori. Chi è che l'ha voluto sto programma fortissimamente? Berlusconi? Chi? Qui dentro l'ha voluto fortissimamente Masi. Sì, quello sicuro. Ma chi gli dovrebbe pagare questi soldi buttati? Ha sognato la notte, no? Credo, mi ricordo che c'era un grosso interesse, no? Avete letto anche voi che la sera, notte tardi, Berlusconi andava a visitare lo studio di Sgarbi per dare consigli. E dovrebbe tirar fuori lui 8 milioni adesso, Berlusconi di tasca sua. Chi dovrebbe tirare fuori questo? Qualcuno secondo me li deve tirare fuori, o li tira Masi o li tira Berlusconi, basta che gli 8 milioni li entrino. grazie. Arrivederci, grazie. Pubblicità. Eccoci, 20:12, caro Parenzo, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Martino, mitico Martino, Antonio Martino del PDL, dice: Tremonti ha troppo potere ed è un analfabeta economico. Lui è un Chicago Boys, no? È un vero liberista. Non è la prima volta che Martino si esprime in questi termini molto duri nei confronti del ministro dell'economia. E andiamo a sentire Alessio da Pisa. Buonasera. Sì, meno male siamo al bar, buonasera a tutti. Se no le parole del dottor Rizzo Nervo mi farebbero davvero venire i nervi, perché insomma una serie di banalità incredibili, però non ho chiamato per questo. Volevo semplicemente ricordavo le parole di Parenzo quando la RAI concluse il suo rapporto con Santoro, ricordo che Parenzo ne parlava come di una grossa perdita, di un capitale fondamentale, ascolti, pubblicità, eccetera, eccetera. Ebbene, io credo che adesso, visto che la 7, l'editore presso il quale lavora, ovviamente, ha rinunciato alla tale occasione economica e anche di immagine, di prestigio, di crescita totale, spero che Parenzo, come dire, faccia un discorso simile, dica esplicitamente alla 7 l'occasione perduta in termini di ascolto e pubblicità, perché altrimenti ci sono soltanto tre parole, come dire, per spiegare tutto questo. No, Parenzo mio. A casa! Intanto, amico mio, lasciami fare subito una riflessione. Dato il copyright del a casa è mio, comunque mi fa piacere che il verbo venga diffuso. Primo, la Telecom avrà fatto le sue valutazioni economiche, costi, benefici, che non posso fare io, che non sono né un economista né un dirigente di quell'azienda, quindi non diciamo stronzate enormi. Io parlavo da un punto di vista della RAI e della SIPRA, della raccolta pubblicitaria, di quanto valeva quel programma in RAI. Evidentemente in Telecom hanno fatto valutazioni economiche diverse che io non conosco e non sono tenuto a sapere. Io da giornalista constato e ribadisco oggi che Santoro è uno che nel mercato della pubblicità vale. D'accordo. Poi non so, allora, quindi... ma credi alla questione del conflitto di interessi sollevata da Santoro oggi, sì o no? No, io da qui, no, da quello che ho seguito, io non posso credere, visto quello che sta avvenendo. Soprattutto perché sei a Ponza. Benissimo. Non sono a Ponza, perché non credo che ci sia la mano di Berlusconi. Di Berlusconi che arriva fino a lì, non posso crederci, non credo. Franco da Lucca, Franco da Lucca, no, non ci credo assolutamente. Franco da Lucca. Buonasera a tutti. Buonasera, dica. Allora, io volevo fare una considerazione come cittadino di strada e come persona normale che vive tutti tra il bene e il male di questa Italia. Non sono d'accordo, diciamo, con il licenziamento di Santoro, perché bene o male è stato un licenziamento. Ma quale licenziamento? Mi scusi, se ha appena sentito uno che certamente non è lontano da Santoro, che è il consigliere di amministrazione della RAI, Nino Rizzo Nervo, in quota centrosinistra, il quale ha detto c'è stato la fine di un rapporto in maniera consensuale, punto e basta. Adesso lei ci dice che invece è stato cacciato, va bene. No, va bene, allora io gli dico questo, mi piaceva molto la trasmissione di Santoro, perché metteva in evidenza dei fatti che il cittadino comune non poteva sapere. E questo mi dispiace molto non avere più una trasmissione così, sia sulla RAI o su altre testate televisive, però almeno era un giornalista che metteva in evidenza alcuni aspetti dell'Italia. Sì, ma è un giornalista, non è che è morto Santoro. È un giornalista che, diciamo... Adesso troverà, c'è stata una trattativa con la 7 che è fallita, magari ne ricomincerà una con la RAI, magari ci sarà un altro modo per trovare spazio a una trasmissione, punto. Non mi pare una situazione drammatica. Televisiva, però che ritorni un'informazione abbastanza obiettiva di ciò che era per il cittadino. Questo mi riguarda. Vabbè, era per il cittadino. Benissimo, andiamo a sentire il traffico, grazie Franco. Eccoci qui. A me francamente mi pare assurdo che oggi, nel giorno in cui c'è la trattativa, Santoro è andato via dalla RAI in maniera consensuale, no? Prendendo la buona uscita e tutto, anche se poi ha detto... Avrebbe preferito continuare a lavorare lì. Beh, non lo so, poteva tranquillamente continuare. Lui dice che c'erano troppi ostacoli, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque, insomma, è stato un rapporto, nessuno l'ha costretto con la pistola puntata alla tempia di uscire dalla RAI. C'è stata la risoluzione di rapporto consensuale. L'inizio di una trattativa con la 7... che poi è andata come è andata, anche se per forse ora, ci sono margini, per ora, dopodiché si grida al conflitto di interessi. Questo francamente non lo capisco, cioè, o si danno le prove dell'esistenza di questo conflitto di interessi che è intervenuto nella vicenda Santoro la 7, oppure siamo alla follia, cioè, No, infatti io non credo su questo non credo neanch'io. C'è una cosa che è strana, che un professionista come Santoro, che comunque è in grado, anche in un programma come ieri, un documentario che ha fatto, un reportage, dove lui è apparso soltanto per 10 minuti in video e ha fatto il 12,3%, insomma una cifra importante per Rai 2 in una serata diversa dal giovedì. Cioè, un uomo come lui... negli Stati Uniti sicuramente se lo contenderebbero a suon di milioni di euro. Ma al di là dei paragoni, questo io non lo so, è solo un dato di mercato. Sì, d'accordo, ma al di là dei paragoni non è... può essere, però io dico anche questo, che può essere, e no, non conosco, non lo so, non sono un dirigente a Telecom, se no te lo dire, saresti la prima persona a cui direi, se avessi delle notizie te le svelerei, figuriamoci, però penso che magari una struttura che come quella di Santoro forse ha anche dei costi molto onerosi per un'azienda come la 7 che è in grande crescita, forse c'è anche questo, non lo sappiamo. Non credo che ci sia Berlusconi dietro, cioè non mi pare il momento storico in cui si possa pensare a una presa così forte di Berlusconi anche sulla 7, non credo. Allora, però magari mi sbaglio. Ci sono delle frasi di Bossi molto dure nei confronti dei napoletani, in generale di Napoli. È stato approvato adesso il decreto legge sui rifiuti, in cui ci sarà la collaborazione delle regioni, sempre se le regioni vogliono accogliere i rifiuti, prendersi una parte dei rifiuti di Napoli. Dice Bossi: il problema dei rifiuti lo abbiamo già risolto una volta, ma i rifiuti sono ancora per strada, vuol dire che non imparano la lezione. Le regioni del nord accoglieranno i rifiuti della provincia di Napoli? Penso di no. Su questo la Lega ha votato contro in Consiglio dei Ministri, dunque a Napoli non imparano la lezione. Queste le frasi di Bossi, addirittura De Magistris si dice da Bossi dichiarazioni indecenti contro i napoletani, eccetera eccetera. Dove andiamo? Enzo da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Non c'è male. Buonasera. Senta, io sono di un movimento meridionalista che si chiama Partito del Sud. Sì. Volevo rispondere a questa vergognosa dichiarazione di Bossi, finalmente qualcuno lo dice che è vergognoso. No, l'ha detto il sindaco di Napoli veramente, Vabbè, anche qualcun altro. Voglio dire che a Napoli e dintorni il problema sia irrisolto non solo per colpa del nord cattivo, ma anche posso per responsabilità parlare degli amministratori napoletani, questo mi sembra fuori posso di dubbio. Qui nessuno vuole difendere gli amministratori precedenti, specialmente Bassolini. Ma nemmeno anche quelli attuali uno li può attaccare. Ma non è un momento, quelli attuali sono appena arrivati e hanno trovato 2300 tonnellate di spazzatura per la strada, adesso ce ne sono molte di meno, molto meno della metà. Vabbè, allora per la prima volta si è fatto un piano strutturato per risolvere strutturalmente il problema, quindi come minimo ci vorrebbe la solidarietà delle regioni che vengono pagate per ricevere i rifiuti della Campania, non è che lo fanno a gratis, perché ci sono molti impianti in Italia, come a molti inceneritori che viaggiano a metà regime, quindi il compito di un'informazione corretta sarebbe quello di dire qual è la vera situazione dei rifiuti in Italia, solo che non lo si vuole dire e si deve dire che la colpa è dei napoletani, del resto è la stessa litania che si dice sul sud da 150 anni in cui siamo. Ma io non so se la colpa sia dei napoletani, non credo. Io so che gli amministratori che hanno provocato la situazione a Napoli sono amministratori scelti dai cittadini napoletani, se non hanno risolto la questione. Questa è sempre, questa è un'altra cosa. Purtroppo la scelta che abbiamo avuto negli anni non è stata tra le migliori, perché qua a destra e a sinistra non cambiava niente. Ma vabbè, adesso dovevate scendere in piazza ogni giorno, andare davanti al comune e portare i sacchi di pattumi di rifiuti davanti al comune italiano. Che non so se è chiara questa cosa. In 15 anni di emergenza rifiuti, lo Stato italiano ha avuto il commissario per più di 10 anni, quindi il commissario ha avvocato a sé tutti i diritti di gestione. Vabbè, non è solo adesso un non rifacciamo la storia, no, dei rifiuti a Napoli. La storia, però voglio dire che l'informazione deve essere corretta. Sì, va bene, deve essere corretta. Io posso capire chi si è stufato. Io specialmente nei confronti di sì, io però posso capire che ci sia qualcuno che si è stufato di, per carità, poi ci sono giochi politici, interessi, eccetera, eccetera. Cioè, posso capire qualcuno che si è stufato ogni volta di portare in Consiglio dei Ministri i decreti straordinari per risolvere la questione dei rifiuti a Napoli. È una cosa, francamente, lo posso capire. Ancora una volta il decreto per risolvere la situazione dei rifiuti a Napoli. La risolvano gli amministratori locali che sono preposti a questo. Cioè, è un atteggiamento che posso capire, al di là poi dei giochi politici e degli interessi. Collegamento, caro Parenzo, con una persona. Ba-bam. Beh, no, ti presento uno dei più grandi registi italiani, regista di film hard, di film porno. Silvio Bandinelli, buonasera. Buonasera a tutti. Come sta? Come sta? Ma io mi inchino. Inchinati. No, ecco, ma se tu non li conosci i film, Silvio Bandinelli? Alzi. Perché fai così? Li conosci o non li conosci? Minchi. Sono Bandinelli è un maestro di Bandinelli magistra vite. C'è un maestro di vita, Bandinelli. Doveva essere proiettato nelle scuole, Bandinelli. Beh, so. Bandinelli deve essere proiettato nelle scuole. Con la citazione in latino, che bello. Non esageriamo Bandinelli adesso. Ero rimasto a verba volant scritta manent. Non esageriamo. Manta. Lei direbbe schizza manent, visti i suoi film. Però, voglio dire, lei, i suoi film, appello al ministro della pubblica istruzione. Ecco. Proiettare i film del maestro, io già l'ho chiesi per Tinto Brass, perché secondo me Tinto Brass ha anche un'altra genere. Beh, è un po' diverso, però è un po' diverso, non c'è dubbio. Però ecco, forse sto un po' esagerando, questo mi rendo conto. No, però, hai deciso, signor Bandinelli, il signor Parenzo ha deciso di far chiudere la zanzara stasera con queste frasi. Proiettare, però, vabbè, proiettare i film del signor Bandinelli nell'ultimo anno di liceo, ecco, lui deve, per insegnare la sessualità. Beh, guarda, che ci sono anche i minorenni. Però all'ultimo una anno di liceo, solo per i diciottenni. Allora vabbè, al primo anno di università, andrebbero privati i film per insegnare la sessualità gioiosa, la sessualità che è bella, capito? Bacchettoni che sono al governo, avete capito? Allora, come hai sentito dalle poche parole che ha detto, perché dopo è stato travolto dalla tua predica, signor Bandinelli, credo che sia toscano, giusto, signor Bandinelli? Certo. Sono toscano, ma da 2 anni mi sono trasferito in Spagna, vivo a Formentera. Una vergogna, la fuga dei cervelli, una vergogna questa fuga dei cervelli, una vergogna assoluta, premi Nobel. Come mai si è trasferito a Formentera da 2 anni? Fuga dei cervelli, appunto. Subito perché mi sono prima di tutto innamorato dell'isola. Ve lo dice a me. Poi lo dice. Io ho 2 figli grandi che poi sono riuscito a mandarli all'università, studiano a Londra, quindi avevo pochi motivi per restare in un paese che, come dire, mi assomiglia sempre meno, insomma. In che senso? Mi piaceva molto l'Italia. Beh, a Formentera, certo, a Formentera si vive meglio che in Italia, non c'è dubbio, a Formentera. No, a Formentera si vive meglio, ma soprattutto... Ma anche d'inverno? Sì, si sta benissimo, si sta benissimo. Ma lei gira film pure a Formentera, no? No, assolutamente no. Io continuo, faccio un po' il pendolare, ho l'azienda a San Marino, un'azienda in Spagna, una a San Marino, e continuo... Senta, ma la signora Minetti l'ha vista a Formentera? La signora Minetti c'è, me ne hanno parlato, non l'abbiamo vista, non si è mai tolta neanche il reggiseno. No. Beh, vabbè, questa è invasa dai paparazzi. Sì, non si è tolto il reggiseno, cosa che a Formentera, devi sapere, Parenzo, tu che non sei un frequentatore dell'isola, al contrario di me, anche se non ci vado da diversi anni, che è una cosa abbastanza abituale, cioè non è una cosa strana, insomma. Però evidentemente... Anche il nudismo viene praticato, soprattutto ottimo. Però... Prima dell'arrivo degli italiani, insomma, in massa. Sì, quello è vero. Viene da vero. Metà giugno, perché quando arrivano i calciatori, sì. Allora tutti arrivano tutti i fans, i curiosi. Sarebbe meglio scappare in quei momenti, caro Bandinelli. Ieri passeggiando ho visto da lontano, per esempio, Costantino. Insomma, non ci facciamo mancare nulla neanche qua. Ah, assolutamente no. Senta, al maestro una cosa, al maestro, sono anche un po' emozionato di parlare con maestro, perché per me è come fosse un premio Nobel per la fisica. Maestro, ma come nascono le storie, i plot dei suoi film? E per esempio, in uno di questi plot, la signora Minetti è un prototipo di donna che sceglierebbe... Noi abbiamo fatto un film, però un filmetto, voglio dire, un... che abbiamo intitolato L'igienista dentale. Ah, così proprio? Ecco. Così, sì. So, L'igienista dentale. Ispirandoci alla storia. Qual è però la storia, io soprattutto mi sono sempre divertito a, come dire, a contaminare il porno con temi alti, essendo così di cultura modesta, laureato, curioso, con passione civile, eccetera. Bellissimo. Mi sono divertito a, appunto, contaminare il porno con i temi alti della politica. Ho fatto film sulla Resistenza, sugli anni di piombo, su... Per esempio, qualche titolo? Ecco, ci dica qualche titolo. Qualche titolo... Preso Mamma, dall'attualità. Mamma, il film sulla Resistenza, il fascismo, anni di piombo. Sì. Questo, poi ho fatto Abuso di potere, che era su Cesare Previti. Sì. Ho girato Cuba sul... Sì. Diciamo sul mito, fra virgolette, di Che Guevara, sì. E fino a Bunga Bunga Presidente. Ah. Vabbè, un instant book, un instant movie praticamente. Beh, no? Devo dire la verità, dunque, la Minetti sarebbe... Insomma, cercare di parlare, tra l'altro, parlare dell'Italia oggi attraverso il porno mi pare un'operazione più che legittima, forse l'unica possibile. Ma no, ma l'unica possibile non lo so, però certamente è una chiave, è una chiave di lettura, non c'è dubbio. È sicuramente una chiave di lettura, voglio dire. Senta, ma quello che le voglio chiedere, la Minetti sarebbe perfetta per un suo film, la signora Minetti, la sceglierebbe? Beh sì, sì, perché comunque ha delle caratteristiche, anche se un po'... come dire, addizionata chirurgicamente. Vabbè, quello anche le attrici porno sono così, non sì, è che... sì, non tutte, perché piacciono sempre più le naturali, ma come ho detto in una in un'intervista che è uscita oggi sul Libero, sì, quotidiano Libero, e mi fanno sempre questa domanda, chi vorrebbe, chi si immaginerebbe, sì, eccetera. Credo che i soldi maggiori li darei in un contratto volante, forse alla Rosy Bindi. No, Rosy Bindi. Sì, sì, sì, sì, perché... Cioè lei farebbe carte false per avere Rosy Bindi come attrice di un film porno. Guardi, quanto anche una Rosy Bindi con mascherina l'accetterei, gli darei qualcosa meno, naturalmente. Cioè quanto darebbe a Rosy Bindi, detto con tutto il rispetto del vicepresidente della Camera, questo, che questo sia chiaro, eccetera. Quanti soldi darebbe a Rosy Bindi per scritturarla? Dai, dai, gli diamo, che ne so, faccio... cerco di fare una cordata, possiamo arrivare... A 500.000 euro, dai. 500.000 euro per un film? Con una cordata. Però dobbiamo difenderci da download illegali, sarebbe un'operazione da studiare bene. Però con tutta, con tutta la pubblicità, ce lo spiega dopo perché, 800 24 00 24, 500.000 euro da Bandinelli, ma è una proposta seria, non si può fare al vicepresidente della Camera. È una proposta serissima. Se 500.000 euro per girare un film porno con la mascherina, cosa pazzesca. Pubblicità. Eccoci qui, eccoci, 20:35, 800 24 00 24. Beh, la straordinarietà, se vogliamo, poi c'è chi la odia, della Zanzara, caro Parenzo, e questa è riassunta in questo fotogramma. Mentre il signor Tremonti, il signor Berlusconi, li potete ascoltare dalla voce, stanno presentando la manovra economica. Ci sarà la riduzione dei costi della politica, che deve costare come in Europa, sostiene Tremonti, sostiene Berlusconi. Noi siamo invece in collegamento con uno dei più grandi registi in Italia nel suo genere, ma è un genere ormai molto diffuso, come sapete, e si chiama Silvio Bandinelli, che è in collegamento con noi da Formentera e che ci parla di politica e sesso. E in realtà siamo partiti da una cosa, siamo finiti anzi ad una cosa, cioè al fatto che signor Bandinelli farebbe carte false, anzi offrirebbe in cordata con altri imprenditori, con altri registi, addirittura 500.000 euro a Rosy Bindi per farla apparire, cosa che evidentemente è un sogno, forse una chimera, in un film, ecco, in un film hard con la mascherina. Come se la immagina lei, la signora Bindi, Bandinelli? Beh, me la immagino non depilata, ecco, me la immagino. Scusi, come non depilata? I dettagli, secondo me, un po'... In che senso, comunque, scusi? Comunque, ecco, metterei sul contratto, chiederei che si lasciasse qualche peletto sotto le ascelle si rasasse, insomma. Sì, ho capito. Io vorrei continuare a lavorare con Cruciani, però io mi ero lanciato in questa proiezione dei suoi film nelle scuole e già pensavo di aver detto tanto. Lei ora entra nei dettagli del vicepresidente della Camera. Abbia lavorato all'istruzione, no? Cristiana Di Ferro arriva sicuramente in 50 anni che è in politica. E dopo la Bindi, diciamo, non depilata e col frustino, immagino, come ha detto lei, no? Col frustino. Sì, sì, sì, sì. Comunque la Bindi, perché il genere che ultimamente va di più, sì, sono le cosiddette MILF, si chiamano in cioè greco. Che significa? Le over 40, over 50. Ah, ecco. Le tardone vanno molto, tirano. E quindi molto. Unito alla Bindi faremmo sicuramente, ecco, mancheremmo il botteghino. Lo so, però Lo so, cioè, è un telesogno. È un telesogno. 500.000 euro per la Bindi per apparire in un film hard. Mentre declinerà, diciamo declinerà. In subordine. Sì, in subordine. Se la Bindi non accetta, sì, ecco, un'altra a cui farei volentieri un'offerta, sì, è la signora Brambilla, sicuramente. Ah, la signora Brambilla. La Brambilla, però, perché è magra. Generi diversi, però. Sì, sì, è magra e ha i capelli rossi, come noi uomini sappiamo. Beh, insomma, quello dipende dai gusti, signor Bandinelli. No, no, sì, però sono... statisticamente le persone magre con i capelli rossi sono molto focose, molto appassionate. Ecco, peraltro pare questa tesi avvalorata da intercettazioni. Ah, lei legge, però è a Formentera, però legge. Legge, poi ho amici giornalisti, i giornalisti sono una categoria, voi lo sapete, terribile, veramente una delle persone, sono tremendi, sono tremendi. Certificatori di tutto ce l'hanno. Diciamo la verità, lei ha letto, le hanno letto queste intercettazioni sulla Brambilla? No, me l'hanno accennate, dai. Però insomma in rete gli accenni si trovano. Allora facciamo il podio, prima scelta la Rosy Bidi, poi Brambilla, quanto offriamo a Brambilla? Quanto sarebbe disposto per la Brambilla in un film? 300.000? Dai, ne diamo 300.000 e può stare veramente contenta. Contenta. Terzo nel podio, terzo chi sceglie? Bindi, Brambilla. Vabbè, ma ci sono anche gli uomini. Ma eh, guardi, oddio, vado sempre a destra purtroppo. Vabbè, no, perché... Bindi no, Bindi mica a destra. Non so, Cicchitto ad esempio. No, vabbè, che c'entra Cicchitto? Diciamo che la Bindi è di sinistra. Vabbè, insomma, più o meno. Beh, sì, insomma, vabbè, oggi poi... Dunque, terza? Il Travaglio è diventato di sinistra oggi. Sì, questo pure è vero. Tutto è forché di sinistra Travaglio. No, no, assolutamente. No, assolutamente. Sant'Anché. Terza Sant'Anché? Madonna, la Sant'Anché sì, però la metto... non la pago molto e la metto in una situazione con 10 uomini di colore, insomma la prende malcontento. No, lo so. E lì perché prevale... le è venuta questa fantasia? Prevale l'ideologia, prevale. Ah, perché devi sapere, in che senso prevale l'ideologia, scusa? No, nel senso che sono veramente distante dalla Sant'Anché, la trovo francamente... irritante, insopportabile, ignorante. Vabbè, adesso questo. No, io personalmente. No, sì, certo. Carità, e dunque per punizione, magari non è una punizione, però. Da quel mondo lì, il Twiga, Briatore, io un pochino, insomma, l'ho lambito quel mondo, è una tristezza, guarda, infinita. Però, oddio, potrebbe anche non essere una punizione quello che lei ha prospettato per la signora Sant'Anché. Probabilmente no, anzi, mi sta facendo riflettere. Appunto, cioè, magari lei è sempre intelligente e puntuale. Cioè, come lotta! Devi sapere, allora, due cose, allora, per gli ascoltatori. Il signor Bandinelli, oltre che essere un uomo, diciamo, possiamo dire di una formazione di sinistra? Sì, assolutamente sì. Io mi definisco un antimodernista, comunque sono... sicuramente l'estrazione è quella. Si è laureato in storia del cinema con l'ex di Lotta Continua Pio Baldelli. Poi altre esperienze a sinistra quali sono state più o meno? Ma io sono sempre stato comunque un toscanaccio di sinistra. Sì, un toscanaccio, però un cane sciolto, un indipendente. Devo dire che nel mio lavoro ho sempre avuto poi più attenzioni dai giornalisti e dai media di destra. La sinistra sa poco ironizzare e col sesso ha un rapporto non risolto. Beh, ha letto questa storia di questa segretaria del Partito Democratico a San, dov'è? A San, non mi ricordo dov'era. Provincia di Pisa. In provincia di Pisa. Costretta, pare, ma poi smentiscono, alle dimissioni dai suoi incarichi nel partito locale perché avrebbe girato questo film con una, non con lei, non con la sua casa di produzione. No, con dei, da un'altra un po' più piccola, toscani, diciamo. Sì, colleghi toscani, fantastico, colleghi toscani. E insomma, ha un po' di rapporti della sinistra col sesso sono un po' complicati, no? Sì, sono un po' complicati, sono perché viene fuori il catto comunismo. Secondo me poi alla base c'è questo background micidiale della sinistra. Comunque sono davvero dei rapporti non risolti, insomma. Mentre voglio dire, bisogna dire la verità, Bandinelli, che Berlusconi da questo punto di vista anche per voi è stata una manna pazzesca, anche per i giornalisti, ma anche per voi è stata una manna strepitosa, o sì, no? Sì, vabbè, ma Berlusconi è un grande. Io guardi, nella mia prima vita ho fatto il pubblicitario per molti anni. Sì. E sono nato professionalmente nella pubblicità con Publitalia, lavorando a stretto contatto con l'inizio di allora era Fininvest. Sì. E ho anche fatto 3-4 cene in 10-12 persone dove c'era anche il patron Berlusconi, eccetera. Lui ha sempre avuto una passione enorme per le donne. La televisione è stata fatta soprattutto all'inizio veramente a sua immagine e somiglianza, la Tini Canzino, le Tettone, Drive-In, quello è proprio il mondo di Berlusconi. E comunque se le è sempre trombate tutte. Cioè, allora, lei dice tutte, Ma insomma tutte. Molte. Già allora insomma aveva questa... Già allora. Unita, voglio dire, alla, era, allora era giovane, molto simpatico, perché comunque è una persona molto, molto, molto brillante, molto simpatica. Con il potere che aveva soprattutto nel mondo dello spettacolo, in piccola Farò di te una stella, voglio dire, un basso continuo in quel mondo, è chiaro che in più con questa passione autentica per la donna che ha Berlusconi, si è divertito tantissimo. Allora, abbiamo in collegamento, questa è la sorpresa, caro Parenzo Bandinelli, resta con noi se vuole, naturalmente. No, la sorpresa è perché noi per il penultimo giorno oggi abbiamo trasmesso i titoli del TG3 presentati dalla signora Polanco, Maristel Polanco, che è stata nostra ospite, showgirl, frequentatrice delle famose notti di Arcore, amica di Berlusconi, e domani è l'ultimo giorno. Come potevamo sottrarci a questa cosa? Come potevamo mancare un appuntamento così importante mentre si presenta la legge finanziaria, la manovra economica? E dunque abbiamo in collegamento la signora Polanco. Buonasera. Buonasera. Come sta? Come sta? Sto bene. Senta, ma lei sapeva che noi ogni sera mandavamo in onda la sua voce per presentare il TG3? Qualcuno gliel'avrà detto, che, no? Sì, tutti me lo dicono, ma io non l'ho mai sentita. Ascoltate, ma veramente non l'ha mai ascoltata? Gliel'hanno detto tutti? No, non l'ho mai sentita, però tutti mi chiamano e mi dicono: guarda che ti ho appena sentita. Gliela faccio sentire, senta. Dai. Buonasera a tutti, in questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire. È una cosa fantastica, è una cosa strepitosa. Ecco, Parenzo da due mesi si chiede perché lei dice ascoltate cosa devo dire. Io gli rispondo: guarda, che è un modo di dire, di come dire, un po' sudamericano, cioè ascoltate cosa deve dire significa insomma sentite, no? Giusto? Sentite cosa deve dire, infatti. È così. Senta, signora Polanco, ma adesso c'è una piccola curiosità che mi viene, così per caso, colgo l'occasione, non me la sono preparata prima, no? Sto mentendo. Innanzitutto in collegamento da Formentera c'è il signor Silvio Bandinelli, che è regista del film. Conosce lei signor Bandinelli? No, pensavo che tu Silvio Berlusconi. No, come Silvio Berlusconi? No, magari. Come quello lo sente lei, signora. Quello lo sente lei, non noi. Il signor Bandinelli è il Luchino Visconti del cinema porno. Lei sa chi era Luchino Visconti? Ah, no? bello, ok. Bello cosa, dice lei, film bello porno? Bello cosa, chi? Film porno, no, ma film che... porno. Lei vede ogni tanto qualche film hard? No, sai, cioè, dipende, no. Può succedere, no? Non è un reato. Infatti, lo so che non è un reato, ma sì, cioè, ogni tanto, non volgarissimo, ma così. Ogni tanto succede. Qual è il discrimine tra un film porno volgare e non volgare, secondo lei? Ecco. Io amo il mio film, che non è porno, però L'amante, vecchissimo film. Vabbè, quello che c'è. Sono delle scene... No, ma quello, cioè, i film hard, lei li vede o no? Anche magari col suo fidanzato ogni tanto. Sì, li ho visti. Li ha visti, non siamo ipocriti, non bisogna essere ipocriti, una grande ipocrisia. Dopo Freddy, Tinto Brass, così. Ah, fino a Tinto Brass è fermata lei, dopo oltre non è andata. Ti piace questa risata, Parenzo, ti piace. Va bene, abbiamo il traffico, poi torniamo per l'ultima parte della Zanzara. Siamo qui alla Zanzara, ultimi minuti, 800 24 00 24, dove ho parlato di Rai, di bollo auto, di manovra economica. Lasciateci qualche minuto di distrazione, caro Parenzo. Tu sei in collegamento da Ponza, qui collegamenti con due isole questa sera, l'isola di Formentera con Silvio Bandinelli, l'isola di Ponza. Signora Polanco, lei dove si trova invece? A Milano purtroppo. Anch'io sono ad Arcore. Perché sempre questa... Lì siamo vicina, però non è che... È vicina ad Arcore? Senta, signora Polanco, lei ha mai assistito a dei baci saffici, a dei baci tra due donne nella residenza di Berlusconi? No, non ho mai assistito. Mai visto? No. Ma non ho mai visto due donne che si baciavano, no? Cioè lei crede a questa storia, per esempio, che la signora Rubbia, la signora Minetti si siano baciate? No, non credo, no. È impossibile. Lei, impossibile. Lei che è amica della signora Minetti esclude che lei possa avere dato un bacio ad un'altra donna, per esempio? No, magari sì, dato un bacio a un'altra donna non credo che sia una cosa dell'altro mondo, ma non credo alla Rubbia. Non credo a Rubbia, cioè, beh, questa è una teoria interessante, però, cioè, la Minetti potrebbe avere baciato, sarà successo che ha baciato un'altra donna, però non Rubbia, ma sempre lì a... Sì, no, ad Arcore no, ma ad Arcore no. Quando non so ci vediamo un bacino in bocca, ma ti saluto come amica, così. Che meraviglia. Che cosa meravigliosa. Bellissimo. No, è che io e Luciani quando ci vediamo però non ci diamo il bacino sulla bocca. Come Senta, sono Bandinelli, ma certo che fosse stata confermata questa, al di là del fatto che Rubina minorenne, per carità, sono cose serie, no? Però questa fantasia dell'uomo potente che osserva una scena di due donne, adesso, ripeto, lasciando perdere la questione della minorenne, è comunque non è una cosa così, cioè non è una cosa abbastanza normale, insomma, no? Sì, è sicuramente vera, non ad Arcole, dove sappiamo benissimo Briatore era pronto a testimoniarlo, insomma, sappiamo benissimo non è mai avvenuto niente di tutto ciò. Lei dice, però sicuramente, insomma, dai, sesso e potere da sempre. Diciamo che adesso è tutto un po' più più ostentato, un po' tutto più volgare, no? Senta, ma lei ha mai fatto qualche offerta a personaggi famosi per fare film che magari hanno accettato all'inizio, poi ci hanno ripensato? Personaggi famosi, non solo politici, ma anzi sicuramente no politici, perché non credo che troverebbe tra gli uomini magari attori adeguati, però insomma qualche personaggio famoso per farlo girare, per fare girare qualche film, e poi questo personaggio magari ha detto di no. Ma guardi, soprattutto a personaggi starlette, televisive, eccetera, dalla... provammo, si disse di no, mi ricordo tanti anni fa, la Deborah Caprioglio, piuttosto che ai tempi di, appunto, Drive-In, eccetera, quando era un po' in calo, la Tenì Canzino, con cui ci fu, non so se ve la ricordate. Sì, più o meno. Ma ultimamente? Giovani, ultimamente? La ricordo. Ultimamente no. Personaggio che mettemmo sotto contratto e con cui abbiamo lavorato, che era comunque un personaggio televisivo, fu la Maurizia Paradiso. Vabbè, quello sì, questo la conosciamo però, anche noi, insomma, caro Parenzo. È abbastanza attigua, insomma. No, beh, certo. Lei non mi ha detto però la terza del podio. Bindi, Brambilla e Santanchè, la togliamo dal podio o la lasciamo? Ma guardi, ma io la toglierei la Santanchè. La Santanchè, la terza nel podio, un po' per par condicio. Sì. Però ho paura venga fuori un po' un film triste, drammatico, metterei la Melandri, che è un po' sparita. Addirittura. Perché film triste, drammatico? Perché era carina, tutto sommato. Sì. Sinistra. Quella se la prende, quando uno dice l'attore Bandinelli la vuole Melandri, un film però gli offriamo poco. Poco, dice, Peggio mi sento, non ce la facciamo. La Carfagna, però ora è sposata, non mi azzardo. Troppo facile. La signora Polanco c'è sempre? Sì, c'è, che vuoi chiedere? Io ci sono. Che vuoi chiedere? No, ma sai, queste sono la voce. Ci sono queste donne che magari hanno fatto già carriere, adesso dicono che non hanno fatto mai niente, invece? Sono certe voci che dicono che hanno fatto di tutto e di più. Per esempio, scusi, signora Polanco, di chi parla? C'è notizia. Di chi parla, signora Polanco? No, queste donne, non so, grande presentatrice. Pensavo che parlasse di politici, no. No, io parlo dei presentatori, cioè voi parlate, se la danno, no, per andare in TV così. Succederà, no, naturalmente, figuriamoci se non succede, no? Giusto? Sì, è di brutto. È di brutto poi, Vabbè. Quando ha sentito l'ultima volta Berlusconi? Quando è che ha sentito l'ultima volta Berlusconi, signora Polanco? L'ho sentito poco tempo fa, sta bene. Sta bene? Feste ha ripreso a farle? Ogni tanto qualche festa, qualche cena? No, ma lui non fa le feste. Feste no, ancora roba sobria, cene sobrie, molto sobrie. No, tranquillo, il Presidente è sempre stato una brava persona, tranquilla. Come ha detto lui, se l'ha fatta tutte, allora, sai, ho sentito dire sì, Ma prima lui parlava, signor Bandinelli parlava prima negli anni 80, eccetera. Ah, negli anni 80. Anche okay, adesso non dice ero lei. Ancora nata, quindi. Anche adesso dice lei, anche adesso. No, no, non stavo dicendo quello. No, anche adesso non se no, ne fa scappare. Adesso sì, di sicuro si farà tante donne, di sicuro, perché lei dice, tutte le donne le corrono dietro. Ah, beh, sicuro. Ah, beh, per forza, se lo dice lei, guardi, ci crediamo, ci crediamo. No, ieri abbiamo avuto anche il medico di Berlusconi che ha detto che insomma è capace di grandi prestazioni sessuali, medico, medico personale di Berlusconi, il signor Scapagnini, Ha capito, signor Polanco. Cara Polanco. Vabbè. Dica qualcosa con quella bella no, voce. No, dobbiamo chiudere, dobbiamo concludere. La ringraziamo molto per questi mesi che ci ha tenuto compagnia con l'annuncio del TG3, ma sarà sostituita da lunedì, però va bene. Grazie a voi e buona serata, buon divertimento e buone vacanze. Okay? Signor Bandinelli, grazie. Grazie. Grazie a voi e chissà che ci vediamo a qualche cenetta tranquilla. Beh, assolutamente, combiniamo, maestro. Assolutamente, assolutamente. Grazie. Torni in Italia. Torni, ma torna ogni tanto in Italia, torna in Italia. No, è la fuga dei cervelli, vergognosa. Grazie, Parenzo da Ponza, ci sentiamo domani con lo Zanzara, con la Zanzara 18:30, ciao. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire! Sì, sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupate. Radio 24. La passione si sente.